Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come d'abitudine, informazioni di servizio rapide e indolori. Allora, la prima è la nostra mail, un abuso al giorno, @radio24.it, la seconda è il mio blog, ormai lo leggete in migliaia ogni giorno e di questo vi ringrazio, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore, la terza è che quando volete potete in tutta tranquillità scaricare le puntate del mio programma e dei programmi di tutti. La ripetizione di Radio 24. Allora, siamo ancora, diciamo, in clima, non dico festivo e natalizio, perché ahimè non è così, ma qualche strascico c'è ancora, quantomeno il ricordo. Ebbene, sicuramente il ricordo porta alla mente anche serate in discoteca, divertimento, caratteristiche tipiche di un locale che negli ultimi anni è assurdo gli onori della cronaca, perché il personaggio che lo governa è tal Flavio Briatore, che non ha bisogno di presentazioni, così come non ha bisogno di presentazioni il suo locale, vale a dire il Billionaire. Allora, che cosa accade? Accade che, leggendo come d'abitudine la stampa locale, in questo caso non è sarda, scopro che il Billionaire vince la causa dei Decibel. Che cosa è accaduto? In maniera molto sintetica, poi sentiremo la voce di un protagonista, l'avvocato di Flavio Briatore. È successo che i giudici della Corte di Appello di Sassari hanno confermato la sentenza in primo grado, cioè la decisione in primo grado, vale a dire che il rumore, comunque i decibel che provengono dal Billionaire, magari probabilmente sono anche di un certo tenore, ma non tale da arrecare un disturbo, quindi da arrecare un danno anche semplicemente acustico al condomini e ai condomini che si trovavano nelle vicinanze di questa discoteca famosissima in Costa Smeralda. Allora, per parlare di questo io ho chiamato con me Antonella Cucureddu, che è il legale di Flavio Briatore. Buongiorno, avvocato Cucureddu. Buongiorno a lei. E il dottore Eugenio Correale, capo ufficio studi della ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, precisamente ANACI Milano. Buongiorno Correale. Buongiorno. Allora, io direi di partire con lei, avvocato Cucureddu. Che cosa ha stabilito? Qual è il principio di questa decisione, di questa sentenza dei giudici della Corte d'Appello di Sassari? Cercherò di puntualizzare un po' meglio la questione. Nel 1999 i condomini di un condominio un po' particolare, per la verità, stiamo parlando di una serie di appartamenti e di villette posti in un'area territoriale piuttosto vasta, a ridosso del Billionaire. Il locale peraltro faceva parte, cioè l'immobile faceva già parte del condominio, è stato costruito insieme a tutti gli altri immobili che costituiscono attualmente il condominio, con un unico progetto e con quella specifica destinazione d'uso che era già quella di discoteca. Quindi chi ha comprato gli appartamenti e le villette sapeva già di acquistare molto vicino ad una discoteca. E questo è importante, cioè lì non era destinato ad un monastero di clausura, ma ad una discoteca. Non solo, poi entrerò nello specifico della sentenza, che è un po' particolare, ma quello che volevo spiegare è che l'area territoriale, diciamo un po' più vasta, nella quale insiste il condominio, è caratterizzata da un'altissima densità turistica e da un'altissima presenza di locali con queste caratteristiche. Cioè, altro punto a favore di coloro i quali lì esercitano questa attività, diciamo. Ci sono altre 4 discoteche nel raggio di 300 metri e altri 2 locali che fanno musica dal vivo, bar, music bar. Quindi è un'area che il comune ha identificato come un'area particolarmente connotata dalla una presenza turistica di divertimento. Diciamo un divertimentificio dove abitano delle persone anche magari stagionali che propriamente non fanno nella vita i raccoglitori di agrumi nella Piana di Rosarno. Esattamente, è proprio così. Esatto. Ora le spiegherò un pochino meglio il problema della causa di cui si parla, perché la notizia forse detta così potrebbe essere deviante. Allora, nel 1999 i condomini introducevano un giudizio civile davanti al Tribunale di Tempio Pausania nel quale lamentavano la violazione dell'articolo 844 del Codice Civile, che è detto molto semplicemente è l'articolo che impedisce le immissioni qualora queste superino, anche di rumori, qualora queste superino la normale tollerabilità. Ecco, io però direi, avvocato, di andare al principio della sentenza, perché altrimenti i radioascoltatori poi si perdono anche fra codici e numeri, perché è quello che è importante. La sentenza che cosa ha stabilito? La sentenza non parla di decibel, la sentenza dice semplicemente che il condominio non ha la titolarità a promuovere cause che riguardano esclusivamente i diritti esclusivi dei singoli condomini. Cioè, si è ritenuto che il disturbo sia un diritto esclusivo del singolo disturbato, ecco, e non anche di un condominio. Ecco, avvocato Cucuredo, il che vuol dire che, fatto 100 il numero di condomini che stanno in quell'area, i 100 condomini avrebbero dovuto eventualmente ciascuno di loro presentare una causa singolarmente, ma non come gruppo, no, non come condominio. Significa questo, potevano anche tutti fare una causa, sì, nominare un loro procuratore, ecco, che ecco, poteva anche essere l'amministratore del condominio, ma dovevano dargli uno specifico mandato, perché l'amministratore del condominio, dice la sentenza, non ha la titolarità per fare il procuratore per problematiche che attengono ai diritti esclusivi del singolo. Cioè, sono due gli articoli del Codice Civile che regolano i poteri degli amministratori del condominio, sono il 1130 e il 1131, e si è ritenuto che non ci sia un diritto del condominio a tutelare questo tipo di interessi. Chiarissimo, chiarissimo. In buona sostanza bisognava promuovere una sorta di class action contro Briatore, ovviamente lo dico per drammatizzare. Correale, come commentiamo questa sentenza? Dicendo che gli avvocati sono importanti, perché in realtà il problema è di come si impostano le cause e di come si fanno valere i diritti. E in realtà è perfetto, l'amministratore non rappresenta i singoli condomini, però l'amministratore avrebbe potuto fare un'azione per il rispetto del regolamento. La collega poco fa parlava di norme di legge, che sono quelle, sono tre articoli del codice. L'articolo 1131 dice: nei limiti di quanto previsto dal regolamento, l'amministratore rappresenta i singoli condomini, quindi era un problema di impostazione di causa. Mi permette però di parlare di rumori, perché alla fine forse è questo l'aspetto più indubbiamente, indubbiamente. Ecco, è perfetta la decisione di diritto, ma è perfetta anche la decisione nel contesto. È evidente che se c'è un insediamento turistico, se ci sono tante discoteche, se l'attività ha una certa vocazione, chi compra sa quello che trova. Per un avvocato questo vuol dire che l'articolo 844 si compone di due comma. Il primo dice: non puoi fare rumori intollerabili. Il secondo dice: però se ci sono attività industriali che rispettano la destinazione dei luoghi, bisogna contemperare anche queste esigenze. Quindi la decisione è perfetta. Guardando un po' più avanti, al posto della semplice stampa quotidiana locale, pensiamo a quello che ha detto qualche anno fa il Corriere della Sera, sempre per questi locali, per queste discoteche in Costa Smeralda. Nel 2005 il Corriere della Sera ha dato atto che erano state avviate altre azioni. Perché cos'era accaduto? Oltre ai singoli condomini c'erano stati proprio degli edifici là intorno, c'erano state altre persone, abitanti di altri edifici, che lamentavano che i rumori venivano incrementati, i rumori erano talmente eccessivi che addirittura a distanza di 700-800 metri si sentivano i rumori. Ma lei sta dicendo una cosa molto interessante, infatti, perché al di là dei controlli, no, perché poi probabilmente i controlli, se ci sono, sono quelli che sono, ma poi probabilmente proprio il fatto che si aumenta anche il tenore della musica, dei decibel, alla fine il raggio di azione di quelli che erano i condomini viene sempre più allargato, e quindi probabilmente gente che non c'entra assolutamente nulla con quella fascia di ascolto si trova lì che non riesce a dormire la notte, insomma. Ecco, e la racconto in termini un po' enfatici dicendo questo, che nel 2006 i carabinieri sono andati e, come dire, hanno abbassato il volume di questi altoparlanti, che un magari po'... sparando in aria. No, no. Sono stati molto più bravi, hanno fisicamente chiesto che venisse ridotta la fonte sonora in modo tale da mantenere la discoteca, mantenere l'attività commerciale, consentire alla Costa Smeralda di rimanere famosa in tutto il mondo, ma anche permettere a chi, non essendo immediatamente adiacente, ma abitando abbastanza lontano, ha tutto il diritto di vivere tranquillo. Benissimo. Essendo queste persone di benissimo, insomma, rispettando le orecchie altrui. Io ringrazio l'avvocato Cucureddu, legale di Flavio Briatore, proprietario del Billionaire, il dottor Eugenio Correale, che è il capo ufficio studi della NACI di Milano, in regia Filippo Reggi, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.